Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopotutto, a rifletterci bene, cosa avrei potuto ottenere da un ragazzo forse più malato di me? Sì, malato, perché per chi si fosse perso le ultime news su di me, sappiate che non sono sparita dalla circolazione. Sto soggiornando presso una comunità famiglia. Ciao, sono Marta, ho 27 anni e vivo a Cuneo. Studio, sto finendo l'università di lingue straniere qui nella mia città e nel tempo libero mi piace leggere. Ho trovato poco prima di andare in onda, veramente 10 minuti fa, girando su internet e sul profilo Twitter, da quello del programma in fuori, una striscia di Peanuts che è vecchia, però è vecchia semplicemente perché è dal 2000 che Schulz è mancato, però che, vabbè, dire che è sempre attuale ovviamente è una banalità. C'è Charlie Brown che è seduto al banco della scuola, guarda dritto davanti a sé e dice: sì signora, vorrei partecipare alla gara di sillabazione. Dietro a lui appare Lucy, quella con i capelli neri, con l'abitino azzurro, e gli dice: psau, ma sei pazzo, non farlo, ti farai ridere dietro da tutti quanti. Lui invece si incaponisce e invece no, si rigira verso la prof: mi scusi signora, stavo rispondendo a uno dei miei molti detrattori. Questa piccola striscia di Peanuts che vi ho raccontato adesso in diretta ha moltissimo a che fare con la storia di oggi. Ha a che fare con il credere in se stessi, con il raccontare qualcosa di sé che magari è difficile raccontare, col prendere il coraggio a due mani ed affrontare la realtà. È la storia di Marta oggi, che fa due cose in realtà con la puntata di oggi e mandandoci il racconto oggi. Una è raccontarci una storia e l'altra è guardarsi da fuori e raccontare questa storia, che anche se appartiene al passato, perché è accaduta mi pare 3-4 anni fa, racconta di lei moltissimo e racconta anche del suo coraggio. Non è una storia facile quella di oggi, nel senso che questa secondo me appartiene alla categoria di puntate. No, guarda, ascolta, mandare alle 4 del pomeriggio una storia che parla di disturbi alimentari forse non è proprio una roba molto radiofonica. Ecco, quella è esattamente una di quelle puntate per cui probabilmente qualcuno mi direbbe: no, rischi che la gente cambi canale se racconti una storia così. Io non credo che sia così, credo anzi che raccontare una storia un pochettino più complessa e un po' più complicata, una storia che magari è lontana da noi perché non ci è mai successo o perché non è successo a nessuno che ci sta vicino, racconti qualcosa anche e soprattutto a noi. In questo caso racconta di quanto si possa smettere di credere in se stessi e si possa ricominciare a farlo, e racconta anche di quanto Marta sia autoironica, perché quando abbiamo letto la storia io e Tiziano ci siamo detti: ma il modo che lei ha di scrivere fa ridere, cioè non è che fa scompisciare, non è Corrado Guzzanti, però è divertente, ha un andamento allegro quasi, nonostante quello che parli nella sua storia, quello di cui parla sia abbastanza delicato. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi Siete Qui. Oggi parliamo, appunto proprio perché era molto autoironica la storia di Marta, parliamo degli spuntini di cui non riuscite a fare a meno. Di solito quegli spuntini sono robe che accadono a mezzanotte, no? Quando circondati dall'oscurità si riesce a raggiungere il frigorifero e riempirsi di cibo, qualsiasi essi siano questi spuntini. Chiara mi scrive: nachos con salsa al formaggio. I nachos sono quella roba messicana, no? I nachos sono quella roba fatta no, tapas è un'altra cosa, Rudy. Cioè il nachos è un tipo di tapa. Dunque, tapa sta per un piccolo piattino, giusto? Giusto, è un assaggino, ok. Ma il nachos è quello fatto con la farina di grano. Ok, perfetto. Con la salsa al formaggio, forse ho capito cos'è. È quella roba che ti spruzzano sopra. Allora, Chiara, nachos con salsa al formaggio, Raffaella, biscotti, latte e biscotti, cracker ed emmental. Spero non tutto insieme, Raffaella. Cioè, spero che siano suddivise le cose. Ah no, Raffaella sottoscrive non tutti insieme. Oppure un pezzo di cioccolato. Manuel, potete anche non credermi, ma una notte mi sono preparato un'intera lasagna. Peccato che lo spuntino di mezzanotte si sia spostato alle 3:30 del mattino. Potete capirmi, ne è valsa la pena. 349-238-6666. Anche lo spuntino durante il lavoro ci sono ste maledette vending machine qua sotto, le odio, perché quando ti ci trovi davanti ti senti, cioè sono proprio lì, li puoi vedere, dici ma basta 1,10 euro e mi posso prendere un Kit Kat o i Fonz. Le Fonz è un delirio, perché poi con i touchscreen lasci odore di mais al formaggio dappertutto. Luca, un bicchiere di latte fresco con Nesquik senza non dormo. Ma scusa, Nesquik non... Ah no, non è caffè, è cioccolato, quindi vale. È orzo? No, no, Nesquik non è orzo, è cioccolato. E quello lì è l'oro, l'ovo maltina che è orzo, giusto? Oh, le so tutte! Marzia, barrette Kinder, ma non sono a mezzanotte. Cioccolata sotto qualunque forma essa si manifesti. 349-238-6666. Il quadratino di cioccolato fondente su un pezzo di pane. Però di solito lo spuntino è una roba un po' più zozza del quadro. Questo qui me lo davano in seminario. In seminario, dopo le ore del pomeriggio, ci davano il pezzo di cioccolato fondente con la banana. Per cui non. Cioè. Non, capito? È una roba quasi che. Non dico che faccia bene, però quasi. 349-238-6666. Si parla di spuntini. Si parla in realtà della storia di Marta, che quando ha scritto queste pagine. Non era dove è adesso, che è a Cuneo, a casa sua, ma era in una comunità. Le ha scritte in forma di diario, quindi sono al tempo presente. Quindi immaginiamo di essere in un periodo dell'anno tipo questo, nebbioso, un po' freddo, in un posto che non so bene dov'è, però dall'idea che sia a mezza montagna, in una di queste comunità dove ci sono un po' di persone che hanno qualcosa che non va. Mano a mano che il trillo della sveglia diviene più martellante, mi decido ad aprire le palpebre. Lo spettacolo che si mostra dalla finestra appannata della stanzetta non è affatto allettante. Una fitta coltre di nebbiolina avvolge il paese in una nube grigiastra. Mi alzo malinconicamente e a fatica, memore del bel sogno che avevo fatto quella notte. Non ho voglia di iniziare un nuovo giorno. Sarebbe stato più semplice tornare a scaldare il letto per tutta la giornata, anzi, entrare in un lungo letargo invernale e sperare di sognare di nuovo Pietro. Arrivata in sala da pranzo per la colazione, mi verso del tè con latte gelido, dosando minuziosamente i cereali col cucchiaino. Bisogna infatti premettere che vivo fin dall'adolescenza in combutta con il cibo e con la fissa perenne della paura di ingrassare. Una volta trangugiato il tutto, mi dirigo a fumare la sigaretta mattutina come al solito. E come d'abitudine attendo impaziente una manciata di minuti in più nella sala fumatori per vedere se arriva Pietro. Accovacciata sulla sedia di Vimini, mi accingo a chiudere gli occhi sconfortata quando la porta all'improvviso si apre. Un ragazzo sulla trentina, dalla chioma castana, un po' gonfia e scompigliata, prende bruscamente posto sull'altra sedia. Il suo viso è chiaramente assonnato, ma i suoi occhietti castani roteano vispi in cerca dell'accendino. Gli porgo il mio. Il pigiama azzurro palesemente corto e consumato lo fa sembrare un bambino indifeso. Questo è Pietro. Lui non parla quasi mai se non per richiedere cose essenziali e pratiche, come le sigarette, per esempio. Dopotutto, a rifletterci bene, cosa avrei potuto ottenere da un ragazzo forse più malato di me? Sì, perché per chi se lo fosse perso, sappiate che non sono sparita dalla circolazione, ma sto soggiornando presso una comunità famiglia. Praticamente in questa comunità si aiutano le persone che hanno dei problemi, delle difficoltà anche a livello mentale, di disturbi come depressione, sbalzi di umore, così anche a riattivarli nella società, reinserirli magari anche nel campo lavorativo. Sì, io soffro di una depressione corollata da disturbi alimentari. Il mio principale nemico è il cibo. Il cibo popola le mie giornate di incubi e ossessioni, come quella di calcolare in modo maniacale ogni porzione a pranzo, per poi finire ad abbuffarmi nel pomeriggio delle scorte della dispensa della comunità. La refurtiva varia dalle mozzarelle agli gnocchi surgelati, dai sottaceti ai sughi di pomodoro. Il bottino viene successivamente da me fagocitato nel bagno di camera mia. Ci sono momenti invece in cui il senso di colpa diviene insopportabile e allora decido che l'ammasso di cibo non può essere assorbito dal mio corpo già rotondeggiante. E allora sputo. Sì, lo mastico e sputo come le mucche al pascolo. Nel gabinetto, nel lavandino, nella doccia, ovunque. Per fortuna, o forse no, nessun operatore ha sinora scoperto il terribile segreto. È un'immagine rivoltante, ma è più forte di me. Inoltre, dopo che ho sputato, mi si gonfia tutta la faccia, perché stimolo in modo esagerato le ghiandole salivari. Perché le cose che ci piacciono o fanno male o fanno ingrassare? Finita la colazione, mi avvio presso l'infermeria e assumo la terapia. Questa mattina gli operatori presenti sono Sara, Donatella e Giorgio. Ultimamente penso che se avesse al mio fianco un tipo come Giorgio, le mie turbe si dissolverebbero al vento. Lui è un uomo di cuore, comprensivo, sensibile. Di aspetto fisico è proprio niente male. Slanciato, un viso che sembra un bambino con grandi occhi verdi e capelli neri come l'ebano. Purtroppo però è già ammogliato. Lui e Pietro se la giocano bene col mio povero cuore. Hanno infatti un particolare in comune: non mi considerano mai. Che vita grama ingiusta la mia. Mi dirigo verso la sala lettura e inizio a leggere, aspettando che si facciano le 10 e che sia l'ora del caffè. Stranamente non ho quasi mai fame la mattina, quindi il problema dei furti di cibo non si pone, anche perché eseguirli sarebbe arduo con le cuoche appostate in cucina. Le 10 giungono in fretta ed il caffè è già pronto. Questo è il momento di riunione che coinvolge tutti gli ospiti e operatori in turno. Qui si assegnano le varie mansioni. C'è la spesa, il caffè da preparare, pulire la propria stanza, fare la raccolta differenziata, aiutare in cucina, fare la lavanderia, insomma, svolgere attività inerenti alla comunità. Oggi io sono di spesa. Si tratta di andare a piedi fino al negozio del paese. Io adesso sono uscita da quella comunità, adesso posso dire che sto abbastanza bene, anche se c'è qualche momento di sconforto, comunque cerco di andare avanti. E al momento, al sabato, lavoro, mentre normalmente studio e cerco di finire, non con qualche difficoltà, il terzo anno d'università. A casa intanto non ci voglio più tornare, sembra un paradosso, ma tornare nelle condizioni di prima non mi va proprio. La mattina mi svegliavo a mezzogiorno solo per mangiare, dopodiché tornavo sotto le coperte, verso le 5 di pomeriggio, mi rialzavo per fagocitare e sputare nuovamente. Sputavo tutto il giorno in sacchetti di plastica dello Shan, che nascondevo negli armadi e nei cassetti di camera mia, uno spettacolo raccapricciante, che mia mamma puntualmente scopriva per poi finire in lacrime da mio papà. L'aria si tagliava con un coltello, tanto era tesa. Meno male che poi mi hanno trascinata di peso all'ospedale con tanto di pigiama e ciabattine di Hello Kitty. Così non si poteva andare avanti. Tutto questo per il mito moderno dell'apparire, per essere magra come una fotomodella. Ero sicura che sputando si poteva assaporare solo il gusto delle cose senza ingerirle e quindi senza ingrassare. Ingurgitavo immense quantità di cibo, le masticavo e poi le espellevo come un lama sudamericano. Tuttora la mia mente distorta mi porta a pensare che se fossi nata esile di costituzione a quest'ora non avrei avuto nessun disturbo. Ma non so se sia realmente così. Magari mi sarei fissata con qualcos'altro, con un'altra parte del mio corpo, ad esempio. Che so, il naso. Il più grande desiderio che ho resta quello che tutte le persone che mi circondano diventino come i personaggi di Botero, l'artista. Così potrei essere la più bella, spassarmela senza angosce, godermi il cibo, insomma, vivere come vive una ragazza della mia età. Basta, devo smettere di pensare a certe utopie. La mia vita è travagliata e lo sarà sempre, mica come quella di un gatto. In aggiunta, in questi giorni sono nervosissima e scarico molto in sigarette e sulle mani, nel senso che rosicchio le dita con la foga di un roditore fino a farle sanguinare. Un giorno, per scherzare, ho messo le mie dita in faccia a un infermiere domandandogli: «Vuoi uno snack da sgranocchiare?» Lui è quasi svenuto. Sono molto tesa e non so perché. Sono solo conscia di avvertire un enorme vuoto dentro di me. Vorrei che tutti i miei problemi si risolvessero. Vorrei poter frequentare l'università. Vorrei poter essere una taglia 40. Vorrei che Pietro e Giorgio mi dichiarassero amore eterno. Sono desideri di una ragazzina in piena pubertà, riposti nell'animo di una 25enne. I can't get no satisfaction. io ciuccio il latte condensato direttamente dal tubetto come un biberon. E poi ancora, di tutto a qualsiasi ora, purché dolce, calorico e deleterio, scrive Tina. Latte, caffè, proteine, non so cosa voglia dire. Cioè, proteine. Le proteine sono dove? Nella carne. Vabbè. Tacos e patè di olive nere alle 24. Ho dormito da seduto per l'acidità di stomaco. Damiano, una cosa che viene fuori da questi messaggi è che veramente gli ascoltatori di Radio 24 hanno una dieta da spuntini orribile. Quando vado in treno, noccioline. A mia figlia piace mangiare pezzi di mela con purè e maionese, tutto insieme. Lo prepara la nonna per merenda, Laura di Padova. Quindi qua, diciamo, col favore della nonna. A me è successo di avere... Nonno... come si chiama? Non ti viene l'allergia? Come si chiama quella cosa che ti viene e ti va via? Ragazzi, non l'allergia, no, la gastrite è una cosa, la gastrite. L'intolleranza, bravi, l'intolleranza. Mi è venuta l'intolleranza da farina di mais perché ho mangiato 2 pacchetti da 10 di Fonzi in una volta. Sì, Fonzi, ho quel problema lì con i Fonzi. Ho il problema che ogni volta che mi fermo in autogrid devo mangiare un pacchetto di Fonzi. Ma chi se ne frega delle mie abitudini? Marta, vi dicevo, ha avuto la forza, il coraggio, anche l'ironia per scrivere questa storia. E adesso è al telefono. Pronto, Marta? Ciao. Come stai? Ciao. Abbastanza bene, grazie. Sì, bene. Dove ti trovi adesso, Marta? A Cuneo, a casa mia, in campagna, quindi con i miei gatti. Con i tuoi gatti? Sì, sì, e il mio cane. Senti, quindi la storia, io l'avevo già annunciato perché me l'avevi detto prima fuori onda, la storia risale a quanti anni fa? A più o meno circa 3 o 4 anni fa, così. E la comunità era da quelle parti o era da un'altra parte d'Italia? Cioè era vicino a casa tua? Da queste parti, sì, sì, okay. In Piemonte. Quindi insomma le zone nebbiose le conoscevi già, quella malinconia di cui parli. Sì, sì, non cambiano molto da queste qui dove abito io in campagna, comunque sì, è più vicino alle montagne, ecco. Quindi adesso tu hai 27 anni, mi dicevi? Sì, 27. Quindi ne avevi 24 più o meno quando hai scritto questa storia? Sì. Quando però sono cominciati questi problemi di cui parlavi nel racconto? Allora, i miei problemi sono cominciati prima, verso 19-20 anni, e da lì in poi ho sempre dovuto convivere con questi problemi che rispuntavano sempre fuori quando meno me l'aspettavo e mi impedivano quindi di portare a termine i miei impegni, anche le amicizie, cose così. Ma scusa Marta, ma quando dici spuntavano fuori quando meno te l'aspettavi, nel senso che sorprendevano anche te? Cioè, tu eri consapevole di avere un problema col cibo oppure ti sembrava che tutto fosse a posto e poi ti svegliavi una notte e dovevi mangiare tutto quello che trovavi? Diciamo più la seconda, nel senso che credo di avere un po' tutto sotto controllo, facevo le mie diete inventate da me e poi all'improvviso però mi si scatenavano queste fame in mani che dovevo divorarmi in tutto il frigo, ecco. Adesso però lo dico perché appunto il tuo racconto l'ho dovuto accorciare perché era più lungo, e però si evince anche solo da quello che abbiamo raccontato in onda e dal tuo tono e dal modo in cui ne parli. Sei molto consapevole adesso di quello, cioè di quali erano i problemi, di quale forse sono ancora e del fatto che tutto deriva dalla volontà di, insomma, di assomigliare a un modello. Questa è una cosa che più o meno conosciamo, che ci viene proposto, che è un modello di donna magra, bla bla bla, eccetera eccetera. Quindi sei molto consapevole di tutto ciò ora? Purtroppo sì, perché ci devo convivere, nel senso che tendo ancora oggi a fare qualche confronto, però comunque in linea di massima so che alla fine, come si dice, bisogna accettarsi, perché cioè non c'è niente da fare. Se uno è di una certa costituzione può fare, certo può mantenersi, contenersi nel mangiare così, però non è che proprio deve cercare di somigliare al perfetto opposto di cui è, perché non ce la farà mai. Credo che i paragoni, insomma, non siano il problema, non siano quello il problema, nel senso che tutti fanno dei paragoni e comunque tutti tengono dentro la pancia nelle foto, questa diciamo è una grande verità, no? Non conosco una persona che non tenga dentro la pancia, soprattutto parlando degli uomini, che quando c'è la foto è sempre un po' così, fatta? A posto. Senti, cosa stai studiando adesso, Marta? Adesso è lingua straniera. Inglese, francese, tedesco, sono al terzo anno di università e spero di riuscire a finire entro tempo debito. Che cosa avresti in mente di fare dopo? E dopo mi piacerebbe diventare traduttrice di libri, perché amo molto leggere, oppure anche girare un po' il mondo, cioè girare un po' qualche paese, tipo Germania, così Berlino, che mi piacerebbe, anche l'Irlanda mi è piaciuta molto, vorrei ritornarci, farmi un po' di esperienza, proprio imparare la lingua. Sì. Senti, c'è qualche amico in particolare a cui hai raccontato la tua esperienza, a cui racconti, cioè c'è qualcuno con cui ti confidi in maniera particolare, oppure è sempre complicato? Purtroppo rimane sempre complicato, perché tengo sempre qualcosa nascosto, anche i miei due amici più intimi, anche le mie amiche più intime, però che con cui mi sfogo, se no esploderei. Però tendo sempre a non raccontare tutto, un po' perché ho paura che si spaventino e si vergognino, ecco, di me, però gran parte dico. Sono un po' combattuta. Certo, lo immagino, anche se non voglio normalizzare tutto, però credo che ci sia sempre una forma di... cioè, ognuno di noi è restio nel raccontare proprio tutto di sé, probabilmente anche agli amici più intimi. Il mio scrigno segreto che devo un po' conservare, che non ce la farei. Però in assoluto mi sembra che tu un giorno ti sia guardata allo specchio e ti sia detta: ok, c'è un problema, cerchiamo di risolverlo, questa cosa l'hai fatta. Devo ringraziare anche la gente che appunto è stata vicina, intorno, anche gli stessi operatori della comunità e tutti gli amici che mi hanno dato una svegliata. Questi sembrano un po' i ringraziamenti dell'Oscar, questo. Bene, allora ringrazio tutti i miei amici. Marta, io invece ringrazio te per la chiacchierata e per la storia. E ovviamente in bocca al lupo e buona fortuna per tutto. Va bene, grazie Crepi. Ciao Marta, grazie ancora. Ciao. Arriva un messaggio da Alessio che dice: so che è difficile da credere, ma di notte ogni tanto mi faccio un buon dì con la Nutella e le cipolline in agrodolce, tutto insieme. Voi siete qui. Per tutti quelli che hanno sentito la storia, il racconto, la voce e le parole di Marta nella prima parte del programma, non è ovviamente una sorpresa se vi dico che nella foto che ci ha mandato Marta è bellissima, e vi invito ad andare a vederla, la sua foto sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È il viso in primo piano, è appena appena abbronzato, deve essere scattata probabilmente al mare questa foto, perché i capelli sono scompigliati, le coprono leggermente il viso con una ciocca e sembrano bagnati di quando sono bagnati di mare con un po' di salsedine sopra. Sì, probabilmente sono 3-4 giorni che è al mare in questa foto Marta, perché ha la pelle che non è ancora abbronzata scura, è quasi leggermente scottata in alcuni punti per quando ti esponi al sole così d'impatto. Hai capelli castani ma leggermente chiari, gli occhi castani e un bellissimo sorriso. Spuntino. Sostantivo maschile. Leggera refezione al di fuori o in sostituzione dei pasti principali. Etimo: derivato di spunto, applicato all'alimentazione. Data 1863. 349-238-6666. Allora, si parla di beveroni no, c'è uno che mi dice che le proteine sono i beveroni, perché lo dicevo beveroni? Le proteine probabilmente sono i beveroni che si fanno in palestra, mi scrive, ma quando chiedevo che cosa sono le proteine, vabbè, insomma. E poi ancora, parlando di spuntini notturni, io sono entrato nel tunnel del latte di capra, molto più saporito di quello vaccino. Alla sera verso le 23 amo berlo freddo di frigorifero, sorbendolo direttamente dal cartoccio o bottiglia, accompagnando il tutto con delle ciambelline di pasta frolla. Mi sta venendo voglia adesso, scrive Gigi. E poi ancora, latte condensato, cosa l'avevamo già detto? Provare per credere. Un cucchiaio di Nutella più un cucchiaio di burro ben mescolati e amalgamati. E per chi preferisce il salato, crostino tiepido con qualche goccia di miele e fettina di lardo dolce. Saluti Vittorio. Tina, mi abbuffo di tutto e a qualsiasi ora purché dolce, calorico e deleterio. Cosa? Ho appena mangiato mezzo pacco di Tic Tac in una volta, mi scrive qualcuno, quindi in questo momento. E poi ancora, panino con soppressa casereccia. La soppressa è la soppressata, il dolce, buonanotte, l'insaccato calabrese, no? Calabrese o pugliese? Vabbè, però credo sia del sud la soppressa. Salame o coppa o crudo o speck, formaggio, asiago o tremosine, patatine, cracker, stuc e birra. Ma c'è uno che ha scritto una roba che credevo solo nei film di fantascienza. dai 4 ai 6 secondi a potenza massima nel microonde. Croste di parmigiano reggiano, un'apoteosi. Roberto da Modena. È arrivata tra l'altro una mail, voi siete qui, @radio24.it, che è arrivata in questo momento preciso e che carichiamo su Facebook più tardi, che ha scritto Sandro. Questa è, diciamo, la madre di tutte le confessioni, direi, a proposito di disturbi alimentari. Io ringrazio Sandro per avermela mandata. È una storia particolare perché parla anche questa di disturbi alimentari, lo fa con una certa leggerezza, ma soprattutto parla di disturbi alimentari di cui di solito non si parla, che sono quelli degli uomini. Caro Matteo, ho ascoltato la storia di Marta con un groppo alla gola. Mi chiamo Sandro, ho 50 anni e ho sofferto di disturbi alimentari. È strano da raccontare, primo perché non l'ho mai fatto se non alle persone della mia famiglia o all'analista che mi ha seguito in quegli anni. Secondo perché i problemi con il cibo sono spesso associati all'universo femminile. È difficile trovare un uomo che ammetta di non mangiare o di mangiare troppo. Il cibo in questi ultimi anni è diventato una moda molto visibile. Gli chef sono delle star e ogni mezzo, quello televisivo, cartaceo e anche quello radiofonico, sono infarciti di ricette, ristoranti con i loro menù, itinerari gastronomici e ovviamente diete. Le diete sono dappertutto. Sbancano nelle librerie e scalano le classifiche. Non che tutto ciò mi dia fastidio, però cerco di frequentare l'argomento cibo il meno possibile. Ora sto bene e mangio quanto e quello che serve. Attorno ai 20-30 anni però la storia era un po' diversa. Ero bravissimo a nasconderla a tutti, ma mangiavo poco e male. Anzi, direi che è meglio dire che non mangiavo. Non saprei dire il perché, o meglio, forse potrei raccontarne decine di ragioni. Ma l'effetto più estremo che questo atteggiamento ha provocato è stata la sensazione di onnipotenza. Perché quando inizi a non mangiare e il tuo organismo, ahimè, si abitua, quello che succede è che tu hai la sensazione di poterne fare a meno, di essere più forte della tua fame, ma soprattutto di essere più forte della natura stessa. Ti sembra di essere qualcosa che può permettersi di stare fuori dalla catena alimentare. Osservi gli altri riempirsi la bocca di cibo e li compatisci. Pensi che loro siano schiavi di quell'abitudine, mentre tu sei sopra le parti, sopra le regole. A ripensarci ora, quella sensazione di onnipotenza è forse stata la cosa più pericolosa che mi sia accaduto durante quel periodo. Quando ho iniziato a capire che quello era un problema e che andava curato, è iniziata la mia guarigione. Ringrazio Marta per aver raccontato la sua storia e avermi fatto venire voglia di raccontare la mia. Io sono qui e ora ti saluto perché tutto questo parlare di cibo mi ha fatto venire fame. Ciao, Sandro. If I said I never thought of you, will that be a lie? But now that you're gone, my life goes on. La soppressa o soppressata è un salume veneto, per esattezza di Vicenza. Non provate mai a dire che un prodotto, un cibo è del sud se è del nord, perché vi si mangiano tutti d'un pezzo. Giusto, la soppressata è calabra, la soppressa è veneta. Niente, continuavo. Tra l'altro qualcuno mi scrive con aglio, senza aglio, qualcuno mi scrive addirittura un po' apocalittico però: il cibo è la droga più a buon mercato e più accessibile in Occidente. Diciamo che anche con l'alcol se la gioca bene. E poi Davide, Giovanni mi scrive: focaccine imbottite di lardo di colonnata. E su Twitter invece qualcuno mi scrive: caffè latte con oro saiva, bello bello scuro. Grazie a tutti quelli che hanno avuto voglia di condividere il loro piccolo spuntino, grazie a Fabio Cantadori, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Marta, la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Davide Monorchio, ho 38 anni e vivo a Nizza Monferrato in provincia di Asti. La storia di lunedì è la mia e vi narra del mio stranissimo rapporto con le penne e del numero sconfinato di penne che posseggo e il motivo per cui le possiedo.